Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alberto Bolaffi. La storia del collezionismo italiano. La storia di oggi è quella di un'impresa particolare che si occupa di antiquariato e collezionismo ed è nota tra i collezionisti di tutto il mondo. Alberto Bolaffi ha lo stesso nome del nonno e rappresenta la terza generazione alla guida dell'attività avviata dalla sua famiglia a fine Ottocento. Certamente non è stata un'idea mia, è stata un'idea di mio nonno, questo signore nato e morto col passaporto inglese, però che ha sempre vissuto a Torino e che a fine Ottocento si è dedicato a un settore del collezionismo. Fra l'altro il collezionismo era un fenomeno molto poco diffuso, riservato a un'elite, si collezionavano quadri, si collezionavano monete, ma in modo poco diffuso, e lui invece si appassionò subito ai francobolli e fu fra i primi d'Italia a diffondere questa passione, che poi divenne molto popolare. Era il passatempo più diffuso al mondo e i tempi non erano facili, e per poter sviluppare questa sua volontà incominciò con importare anche biciclette inglesi. E i giornali dell'epoca ci raccontano che faceva degli scambi francobolli contro biciclette. Poi ovviamente il collezionismo filatelico si diffuse, lui all'inizio lo affiancò a quello delle monete e delle figurine libiche, che allora avevano un grandissimo successo, diffuse in Italia il primo catalogo di queste immagini proveniente da queste confezioni che erano prodotte fra l'altro in Germania, però poi si dedicò in definitiva soprattutto ai francobolli e alla filatelia, dove eccelse. Alberto Bolaffi Senior aveva 16 anni nel 1890 quando fondò la sua impresa. Proveniva da una famiglia ricchissima di mercanti, venne allevato da due zie a Torino, non poté completare gli studi, ma parlava più di 10 lingue. Era anche un uomo che aveva un atteggiamento molto garbato. Un anno fa si festeggiavano i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma nell'11 Torino festeggiò i 50 anni e fu mio nonno incaricato di occuparsi dell'esposizione filatelica. Bisogna tenere presente che il francobollo, ancora sino agli anni 40, era un po' lo schermo televisivo, perché poi non parliamone a fine 800, all'inizio del 900, in quanto le immagini sui giornali erano pochissime, erano delle xilografie in bianco e nero. La prima immagine che diffusero i ritratti dei sovrani e anche scenari esotici come le giraffe eccetera erano i francobolli, e questo determinò il successo della raccolta. Chiunque voleva istruirsi in modo visivo cercava i francobolli di un certo paese. La filatelia lo portò da subito ad avere rapporti internazionali e riconoscimenti in tutto il mondo, e mio nonno fu un famoso giurato internazionale. Il massimo riconoscimento per un collezionista di francobolli è quello di essere iscritto al Roll of Distinguished Philatelist. Il mio nonno fu insignito nel 1936 di questo titolo molto ambito, fatto abbastanza anomalo. Poi fu insignito anche mio padre, e forse immeritatamente anch'io, ormai parecchi anni fa, ebbi l'onore di firmare questa grande pergamena che viene conservata, e poi c'è questa cerimonia molto pomposa, si va lì e si pone la propria firma. La seconda generazione è rappresentata dal figlio Giulio Bolaffi. Quando durante la Seconda Guerra Mondiale, con le leggi razziali, la famiglia emigrò all'estero, Giulio rimase in Italia e divenne partigiano. E alla fine della guerra, tornato a casa, avviò un'attività editoriale pubblicando il primo settimanale di informazione del dopoguerra, La Settimana nel Mondo. L'attività editoriale della famiglia continuerà negli anni successivi. Tanto mio nonno quanto mio padre, fra l'altro mio nonno è stato ricordato da un francobollo francese un anno fa. Mio padre e suo padre, mio nonno, sono stati figiati da un francobollo italiano. Sono personaggi che hanno veramente un po' inciso nella cultura e anche nella storia italiana. Mio padre è stato durante la guerra un valoroso partigiano, è stato un uomo che ha aperto il collezionismo filatelico a nuove sfere, nuovi settori. Il suo impegno è stato grande, è stato anche riconosciuto perché è stato nominato Cavaliere di Gran Croce, che credo che sia il massimo simbolo in termini di riconoscimento che riserva lo Stato italiano. Ma era un uomo anche molto modesto, non si è mai esibito per i meriti che aveva, però tutti gli hanno riconosciuto questa sua grande capacità di anticipare i tempi. E arriviamo così al nipote del fondatore, Alberto Bolaffi, terza generazione, nuovo sviluppo dell'attività imprenditoriale di famiglia anche con attività collaterali. Sì, anche questo un po' dalla nostra famiglia, perché appunto dicevo mio nonno si è occupato di biciclette e di altre cose, mio padre nel dopoguerra è stato l'editore del primo news magazine d'Italia, non c'era l'Europeo, non c'era questa settimana nel mondo, e anche io ho fatto cose affini o collaterali. A 30, quanti anni ero? Sono stato più o meno 30 anni, ero amministratore legato della Bolaffi e Mondadori, che è una casa editrice creata da noi, poi Mondadori ci hanno usato riguardo di voler diventare nostri soci. Siamo stati i primi in Italia a diffondere quello che oggi è normale, delle pubblicazioni molto precise che davano indicazioni nei confronti della cultura, il catalogo Bolaffi dell'arte, della rivista Bolaffi Arte. Ma se si pensa al successo che sta riscontrando il vino italiano, il padre di questo successo è Luigi Veronelli, tutti hanno detto sì, ha fatto conoscere il suo credo e le sue scelte attraverso il catalogo Bolaffi, quindi mi sono trovato a capo di una casa editrice molto importante, che poi a un certo punto la mia attività era quella di famiglia, ho ceduto a Giorgio Mondadori. Siamo stati i primi a occuparci di memorabilia spaziali, tutte spaziali, o il telegramma che Khrushchev ha mandato a Gagarin quando è tornato sulla Terra, che nel Guinness dei primati e appartiene al nostro archivio storico. La sede centrale è a Torino, dove si trova anche lo stabilimento per produrre molti accessori per il collezionismo. Poi negozi a Milano, Roma e il più recente a Verona. Oggi l'azienda si occupa di collezionismo soprattutto, ma non solo filatelico, ed una serie di attività collegate. Noi siamo una piccola azienda, ma siamo organizzati in più società. C'è la Bolaffi S.p.A. che si occupa appunto di antiquariato numismatico e filatelico attraverso 4 negozi, abbiamo 15 agenti monomandatari in tutta Italia che operano in questo settore. Poi abbiamo un'altra società che si chiama Archaion, che si occupa delle nostre aste. Noi abbiamo delle aste nell'ambito appunto della filateria, della numismatica, dei manifesti, degli autografi, dei libri. Poi abbiamo una casa editrice che oggi si occupa direttamente dei nostri cataloghi, del nostro mensile di filatelia. Indirettamente abbiamo un mensile di numismatica. E poi cosa abbiamo? Abbiamo una società che si occupa di oro, ossia proprio di materie prime, ecco, dal punto di vista proprio della transazione. Chi vuole comprare oro monetario o anche lingotti può servirsi di questa nostra società che si chiama Filografica. E nei momenti di difficoltà economica come questo, per l'attività di Bolaffi c'è qualche riflessione da fare riguardo al concetto di bene rifugio. Dal punto di vista scaramantico devo dire che non dobbiamo lamentarci, non che noi cerchiamo momenti di difficoltà, ma nei momenti di difficoltà c'è normalmente la corsa al bene rifugio. E per la prima volta dalla storia di mio nonno ci accorgiamo che i quarantenni, i cinquantenni hanno vissuto, non voglio entrare in commenti critici, ma nella speranza che il denaro produca il denaro. In famiglia si è sempre detto che il denaro è un mezzo per fare altre cose. Invece questi ad anni si parla che coi soldi si fanno soldi, situazione che oggi è notevolmente in crisi. Ma molti giovani non sanno cos'è, giovani parlo di quarantenni, 45enni, 50enni, non sanno assolutamente che cos'è bene rifugio. E quindi non è che io spero in un boom dovuto alla crisi di altri settori, ma in questo momento noi ci accorgiamo che solo chi è collezionista o ha avuto un esempio in famiglia credendo nei beni rifugio ha una maggiore propensione all'acquisto di francobollo di monete numismatiche. Però non è che ci sia un risveglio collettivo nei confronti di questi settori, ed è una fortuna, perché quando la domanda non è tecnica si sa che fa come i fiumi, quando si ingrossano poi creano dei danni. Meglio rimanere di fronte a una domanda consapevole, che è quella attuale del commercio filatelico numismatico. Il fatturato maggiore riguarda il collezionismo. L'azienda non ha un prodotto canonico, ma una dimensione non trascurabile. La somma dei nostri fatturati, io do un dato, perché noi vendiamo al dettaglio, quindi con l'IVA, nel settore delle monete e dei francobolli siamo sui 40 milioni, credo che siano 38 milioni, nel settore delle aste come prodotto ceduto, poi c'è l'intermediazione che è molto più bassa, siamo oltre gli 8 milioni, poi gli altri settori sono più marginali. Sono piccole cifre rispetto ai grandi numeri dell'industria, ma nel settore antiquariale sono delle cifre che hanno un loro significato. Nel 1997 la Bolaffi è diventata società per azioni e per portare avanti l'attività di famiglia c'è il figlio maggiore Filippo. Ho due figli. Il minore, dopo la laurea, gli ho detto vieni in azienda, ho detto no papà, io voglio fare il pittore. Dico ma come campi? Essendo stato un fortissimo giocatore di tennis, ma io faccio il maestro di tennis. In questo momento fa il pittore e insegna anche il tennis. Poi ha già scritto un libro di novelle di buon successo, sta scrivendo, è l'intellettuale della famiglia. Il maggiore invece da sempre ha seguito, diciamo anche personalmente è sempre stato un collezionista, e ha fatto i suoi studi, si è laureato in Italia, ha fatto un MBA a Boston eccetera, e poi cosa che abbiamo fatto tutti i Bolaffi hanno avuto, mio padre ed io abbiamo avuto un momento di assenza in azienda in quanto forse i caratteri nostri sono abbastanza forti, e a un certo punto alternato questi suoi studi all'estero e se direi cacciato con successo nelle energie alternative, finché sono state diciamo agli inizi quando c'era molta propensione, però adesso le cose stanno rientrando. E ho avuto la felice sorpresa di sapere che all'inizio dell'anno mi ha detto ritorno ed è ritornato appunto a febbraio nella Bolaffi, e significa che la quarta generazione è arrivata, credo, spero, in modo definitivo alla Bolaffi. I collaboratori e i dirigenti sono giovani e il passaggio alla quarta generazione si sta attuando. Abbiamo dei magnifici collaboratori, un'azienda molto strutturata. Io ho avuto tre dirigenti che sono rimasti con me più di 50 anni, uno di questi è ancora nel consiglio di amministrazione, ancora parte attiva, gli altri sono andati in pensione, e abbiamo dei giovani dirigenti molto validi. La Bolaffi a Torino è famosa perché ha sempre i suoi dirigenti in giovanissima età. Quindi quando uno è valido alla Bolaffi gli riconosciamo i meriti, e poi abbiamo dei giovani funzionari. Oggi è un'azienda giovane la Bolaffi, ecco, io sono uno dei pochi vecchi rimasti. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.